9 in punto. Una buona giornata da Simone Spezia, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Allora, questa crisi mette a rischio anche chi normalmente, scusate l'espressione, ha le chiappe al caldo. Io sono tra questi, nel senso che sono un assunto a tempo indeterminato. Eppure, anche io oggi, devo dire, manifesto un certo nervosismo. Sento parlare di rimpasto, sento parlare di dibattiti infiniti sulla legge sull'omofobia, per carità, pur importante, e poi però vengo a scoprire dai giornali e dalle riunioni di governo che sull'IMU si rinvia un'altra volta. Si pensava che la riforma dovesse arrivare entro la metà di agosto, invece si sono accordati, pensate un po', sul metodo. Ora, fatecelo dire un po' accorati, abbiate pazienza. Chi se ne frega del rimpasto? Io voglio che ora voi vi alziate. Voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più! Non se ne può più, davvero, e scusate se c'è un filo di qualunquismo nella puntata di oggi, abbiate pazienza, però, insomma, veramente, forse... siamo arrivati al limite della rabbia, come dice il ministro Delrio. Forse in realtà nella rabbia in parte ci siamo già. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Fatemi anche dire una parola, visto che oggi parliamo della crisi, una parola importante a tutti gli amici, permettetemi di chiamarvi così, a tutti gli amici tassisti che ieri mi hanno scritto arrabbiati per la puntata che abbiamo fatto sul caso Uber. Tenete ben presente che nella puntata di oggi voi siete pienamente dentro, perché la sofferenza della società italiana, degli artigiani, dei piccoli imprenditori riguarda pienamente anche voi, e sappiamo perfettamente, al di là dei ragionamenti sulle liberalizzazioni che secondo me vanno fatti e abbiamo fatto correttamente ieri, la fase di sofferenza che attraversate anche voi. E questa non è una captatio benevolentiae, ma un fatto, insomma, no? Basta parlare con ciascuno di voi. Marco Accornero, segretario generale dell'Unione Artigiani della provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Facciamo così. Io la introduco con una musica, va? There was an old lady lived over the sea. She was an island queen. Her daughter lived off in a far country with an ocean of water between. Allora, canzone tradizionale del XVIII secolo, siamo negli Stati Uniti. E che cos'è questa? È una canzone dedicata al cosiddetto ricevimento del tè di Boston, quell'atto di protesta che poi ha dato il nome ad un pezzo del Partito Repubblicano negli Stati Uniti, e anche, cioè anche un Tea Party italiano, e fu la rivolta fiscale contro la corona britannica. È di questo che vogliamo iniziare a parlare con lei, Accornero, perché voi avete fatto un sondaggio tra gli artigiani milanesi su questo tema, no? Sì, noi abbiamo voluto tastare il polso della categoria, che è esasperata e oltretutto è senza prospettive, non vede la famosa luce in fondo al tunnel e soprattutto non vede una linea guida che possa dargli speranze per il futuro, e allora abbiamo voluto sentire la categoria su come era il termometro della rabbia, diciamo così, e provocatoriamente abbiamo lanciato delle domande, lasciando peraltro anche spazio libero a suggerimenti da parte degli artigiani stessi, e appunto come Unione Artigiani a provincia di Milano abbiamo lanciato un sondaggio al quale, e questo è già un dato significativo per essere artigiani che bene o male lavorano, che si dice che non hanno dimestichezza via web, hanno risposto in oltre 600 a questo sondaggio, a testimonianza che c'è una grandissima tensione verso i problemi e un grandissimo malcontento. Provocatoriamente una delle proposte era quella di lanciare lo sciopero fiscale, ebbene quasi il 40% ha risposto che era estremamente d'accordo. Se andiamo agli abbastanza d'accordo, che si aggiunge un altro 7%, andiamo quasi al 50% che sarebbe d'accordo a uno sciopero fiscale per dare un segnale. E poi c'è una percentuale di indifferenti, diciamo che insomma, se lo sciopero fiscale si fa, tutto sommato non si tirano indietro. Aggiungo un'altra cosa a questi dati che ha fornito lei, ce n'è uno interessante, per esempio: ampia maggioranza sarebbe favorevole a non versare l'IVA sulle fatture incassate, tanto per fare un esempio, amplissima maggioranza, 62%. E questo da un lato è anche interessante vedere le categorie che hanno maggiormente risposto e ovviamente sono quelle maggiormente colpite dalla crisi, il settore dell'edilizia e il settore della metalmeccanica. Questi sono i settori dove, oltre a essere più pesante la crisi nel senso di calo di fatturato, c'è anche la maggior difficoltà di vedersi pagare le fatture e il fatturato che comunque si genera. E qui si genera quindi di conseguenza il problema di anticipare allo Stato l'IVA che non sia ancora incassata, e quindi l'artigiano si sente vessato da uno Stato opprimente che chiede le tasse prima che siano ancora stati incassati i relativi problemi. E lo capisco, a Cornero ci sentiamo vessati noi lavoratori dipendenti, immagino voi, insomma, ecco. Nell'ambito di questa crisi terribile, devastante, come sapete, l'abbiamo raccontato molte volte, questa crisi ha colpito duramente, molto duramente, anche soprattutto l'edilizia, questo l'abbiamo detto tante volte. Ci sono delle storie interessanti che vale la pena raccontare, di gente che si muove e segnala la sua presenza e la sua difficoltà in un modo diverso. Voglio salutare Sakir Kamilowski, che è nient'altro che un lavoratore edile o un ex lavoratore edile a questo punto. Kamilowski, buongiorno. Buongiorno. Da molti anni in Italia, quanti? Io sono in Italia. In Italia sono, diciamo, tutto 15 anni, ma sono 13 anni sempre regola, non mi manca una giornata. Ed è... lavorato. E lei da dove viene? Da dove viene, Kamilowski? Vengo da Macedonia. Viene dalla Macedonia. Naturalmente i suoi figli sono cresciuti qua, figli lei, sì? Sì, sono venuti qui da 5-6 anni, sono 29 anni residenti qui, in Italia. E non hanno alcuna intenzione di muoversi. Ecco, lei fa parte di un gruppo di lavoratori del settore che avete fatto una bella cosa a Rimini, insomma, per dimostrare che in realtà il lavoro c'è. E poi altro tema fondamentale, quello del famoso patto di stabilità dei comuni virtuosi, che insomma non hanno i soldi ma non riescono a cacciarli fuori perché sono vincolati. Che cosa avete fatto, Kamilowski? Che lavoro ho fatto? No, che cosa avete fatto l'altro giorno nella scuola? Ci siamo fatti un po' pulizia alla scala, ho fatto stuccare perché sono un po' crepati, ho fatto lavoro, siamo stati Insomma, avete sistemato le scale della scuola sostanzialmente, no? Da appunto gruppo di lavoratori edili che hanno sistemato le scale della scuola. Ci sono, come vedete, belle storie, bei modi di segnalare questa situazione di difficoltà. Lei adesso naturalmente è senza lavoro. Sì. E che cosa ha intenzione di fare? Ritornare in Macedonia? No. Ascolta, per me, io torno anche in Macedonia, non è problema, solo c'è un po' problema in casa adesso, bambini, perché sono da 7-8 anni qui, da piccoli, c'è amicizia, ho iniziato a scuola qui, ho studiato, c'è una figlia che ha studiato anche a scuola superiore, adesso cerca lavoro, non c'è, con due diplomi, figlio adesso inizia questo anno scuola superiore, non voglio andare a casa, piange. Certo. Io non voglio andare a tornare nel mio paese perché io c'ho amici qui, c'è tutto qui, non capisco più scrivere la nostra lingua, non capisco niente adesso. Io adesso ho fatto un po' per tornare dietro. Io torno, per me è uguale, solo per lui un po' fatica. Allora, questa è la storia, un altro pezzo, insomma, sono mille le storie che arrivano dalla crisi di questo paese e se volete raccontatele, l'800 24 00 24 è qua apposta insieme alla nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24, ci scrive Matteo Tarroni, basterebbe una settimana di sciopero fiscale, tutte le tasse, quelle giuste e quelle ingiuste, per far invertire la rotta, non vedo altri modi per dare il segnale che siamo arrivati al limite, se vogliono, possono, devono essere aperte virgolette motivati. E ancora c'è chi addirittura propone rivolte di piazza, ma insomma, Francesco ci scrive: la situazione è pesante, facciamo fatica a stare in piedi, non solo lo Stato, meno che mai l'Europa non ci aiuta, ma ci rema contro. Alessandro Volta scrive: io e sempre sulla bacheca Facebook, con tutto maiuscolo, ho la bava alla bocca, non ne posso più. Questo ci scrive. Allora, torniamo da Cornero, ma insomma, voi avete voluto lanciare la provocazione, ma io ho anche l'impressione un po' a Cornero che siamo arrivati ad un limite per cui una protesta fiscale di questo tipo, magari non totale, non completa, magari relativa solamente ad alcune cose, come per esempio l'IVA, è una cosa che ormai potrebbe essere, insomma, non dico nei fatti, o, però quantomeno nelle prospettive concrete di quel che si può fare per dare un segnale. Ma guarda, lei ha perfettamente ragione. Noi abbiamo l'impressione che la classe politica non si renda conto di quanto sia profonda, lunga e pesante questa crisi, anche perché noi abbiamo un welfare familiare che sta tenendo e ha tenuto unito il paese, la coesione sociale, e per welfare familiare intendo i risparmi delle famiglie che sono andate a sostenere il reddito delle famiglie stesse e delle imprese, perché molti artigiani stanno consumando o hanno già consumato i propri risparmi per mantenere in vita le imprese. Chiaramente questo tipo di sostegno indiretto al proprio reddito familiare non può durare all'infinito, e quindi siamo sull'orlo, se mi consente la battuta, l'orlo di una crisi di nervi che potrebbe portare a proteste anche eclatanti, cosa che nell'artigianato non si è mai verificato. L'artigiano chiedono una cosa a Cornero, guardi mi arriva una domanda via Twitter, gliela voglio girare. Tra l'altro vi voglio segnalare un altro dato che secondo me è interessante di questo sondaggio che hanno fatto. Pensate, il 15% degli artigiani interpellati, il 15%, l'11% con più convinzione, il 4% con meno convinzione, però sarebbe favorevole a tornare ad un'economia del baratto. Fatevi un'idea della dimensione di questa crisi. Franco da Cesena, buongiorno. Anzi no, aspetti Franco, mi scuso, ho lasciato in sospeso la domanda per Accornero. Ci chiede Simone Bianco, la chiede brutale, però se invece di abbaiare come sempre proteggerebbe le aziende, gli artigiani in caso di sciopero fiscale? Si tratta di trovare delle formule legali, perché l'artigianato e anche noi come associazione siamo per la legalità. Certamente, ad esempio, spingere su due proposte concrete che emergono dal sondaggio: la compensazione, il non pagare l'IVA se non si è incassata, quello tecnicamente possibile se il legislatore vuole, e quello di compensare debiti e crediti con la pubblica amministrazione, ma ad ampio raggio. Io lavoro per la pubblica amministrazione, non mi paga, e poi non, però io non ti pago magari le tasse o i contributi. Ma come se il legislatore vuole, mi scusi a Cornero, se è una rivolta fiscale è una rivolta fiscale. Nel senso che in questo senso si possono intraprendere anche azioni di carattere legale che abbiano un senso giuridico, dice lei, insomma. Franco da Cesena, buongiorno. Buongiorno, io mi occupo di aziende, le ristrutturo, sostanzialmente vedo una realtà che è molto peggiore di quella che la percezione collettiva può essere quella che state rappresentando voi. Due cose volevo dire. La prima, che fino al 2008-2009, quando ristrutturavi un'azienda e lasciavi a casa delle persone, le licenziavi, avevi tutto sommato una buona probabilità di credere che questi potessero rientrare nel mercato del lavoro, perché il mercato era ricettivo e anche perché ancora la Fornero non aveva fatto i danni che ha fatto. Oggi invece è un disastro, lasci a casa delle persone sapendo che lo devi fare, perché sennò l'azienda muore, ma allo stesso tempo che metti queste persone in una condizione disperata, e sicuramente la riforma Fornero, soprattutto sulla parte della mobilità, ha peggiorato la situazione. In secondo luogo, che io vedo aziende che sono assolutamente inginocchiate dal mancato pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, direttamente o indirettamente, questo sarebbe fondamentale, e non faccio il nome, ma sto seguendo un'azienda che paradossalmente non incassa dal pubblico, ma ha avuto una bella visita fiscale e per motivi induttivi ha dovuto pagare 150.000 euro di multa, e questa l'ha messa in ginocchio e probabilmente chiuderà. Allora, questa è la realtà che vedo io, e sì, onestamente il fatto che voi stiate alzando il tono, fate bene, bisogna alzare il tono, perché questi signori politici stanno vivendo in un altro pianeta. Grazie Franco per il suo intervento. Tra l'altro vi ricordo che oggi il Sole 24 Ore dedica l'apertura e ampi approfondimenti esattamente ai pagamenti dello Stato alle imprese, e però devo dirvi la verità che le cifre sono ancora basse rispetto all'enorme stock di debito accumulato da parte dello Stato, uno Stato debitore. Io di questa cosa continuo a non capacitarmi. Gianni Bottarico, buongiorno. Buongiorno. Presidente nazionale delle ACLI, le associazioni cristiane dei lavoratori italiani, benvenuto. Allora, io con lei voglio invece approfondire un'altra questione che riguarda naturalmente sempre la crisi, e riguarda come ha colpito questa crisi e quali fasce ha colpito questa crisi, perché ha colpito gli imprenditori e lo abbiamo sentito, ma ha colpito anche, come abbiamo sentito dal racconto di Sakir Kamilovsky, anche le fasce più deboli. Allora, voi state per presentare una proposta da questo punto di vista, una proposta di reddito di inclusione sociale, così? Sì, noi domani mattina presenteremo al ministro Giovannini, quindi al governo, questa nostra proposta, questo nostro patto contro la povertà. Così lo abbiamo voluto individuare, perché oggi è necessario ed è fondamentale accompagnare ad alcune proposte anche una grande coalizione. Mi pare che le cose che abbiamo sentito prima, anche da parte degli imprenditori e artigiani, dimostrino quanto oggi il Paese abbia bisogno di unire le forze, perché la crisi e le difficoltà anche del ceto che oggi entra nella povertà fa parte, è l'anello e la catena terminale di un processo ormai vizioso che c'è nel nostro paese. Con la solita sensazione, mi perdoni Bottarico, che alla fine ce la caviamo da soli, cioè si muove la cosiddetta società civile, cerca, aperte virgolette, di coalizzarsi sempre con, si muovono i singoli individui, e poi sempre però con la sensazione di avere uno Stato che non ti viene dietro. Guardi, questa può essere una sensazione, ma non se ne esce in questa maniera, e tanto è vero che proprio nel patto che noi lanciamo coinvolge le forze politiche, il governo, le istituzioni, coinvolge le imprese, le famiglie, i consumatori, coinvolge tutto oggi il mondo che ha la responsabilità, ha questa responsabilità. Allora Bottarico, poi voglio scendere nel dettaglio di questa proposta, che è una proposta che riguarda non le persone che non arrivano alla quarta settimana e nemmeno quelle che non arrivano alla terza, ma riguarda soprattutto le persone che non arrivano nemmeno alla prima, e sono naturalmente sempre di più, perché lo ripetiamo, la crisi ha colpito duro. 9 in punto. Mi scrive Alessandro De Benetti su Facebook: il nostro Stato fa ridere in tutti i campi, dal Kazakistan al fisco, ma pensa, non posso partecipare a gare pubbliche perché non sono a posto con i contributi, ma i soldi che avanzo dal fisco non posso incassarli, ci vogliono bastoni e forconi, dice, altro che finanziamento pubblico dei partiti. E questo è un pezzo sicuramente del sentimento del Paese, ma al di là dei singoli provvedimenti, fatemi dire, almeno per come la vedo io, quello che sento mancare in questo momento, profondamente da italiano e quindi nemmeno da giornalista, conduttore radiofonico per caso e quello che vi pare, sento che manca una visione, una prospettiva, insomma, e quello che sento che manca è guardare con serenità ai miei tre figli e dire: ragazzi, il futuro in questo paese è sereno. Alessandro, la provincia di Pistoia, buongiorno. Buongiorno. Lei che fa? Lei che fa di mestiere? Io faccio il commercialista. Fa il commercialista. E quindi parlo da un osservatorio per certi aspetti. Come vanno le cose? Ma diciamo, sotto il profilo della normativa fiscale è un disastro totale, ma questo purtroppo è una degenerazione. Lei cosa cura? Aziende o... Aziende, ho avuto rapporti anche con enti pubblici, ma più che altro giro un po' per l'Italia, faccio attività di formazione, ma indipendentemente da questo. No, vabbè, però è anche un osservatorio anche quello, no? Cioè non è... Sicuramente. Prego. Ecco, molto sinteticamente, ci sono due aspetti di fondo. Il primo è che oggettivamente chi osserva il legislatore fiscale ha la sensazione nettissima che sia distantissimo, anni luce dalla realtà aziendale. Saprà perfettamente, ma è solo un inciso, che per esempio in periodi di massima crisi come quella che stiamo vivendo sono state introdotte norme sulle perdite sistemiche che vanno a penalizzare società che già sono in grandissima difficoltà, oppure si impedisce di ridurre ai soggetti IRES gli interessi passivi. Ma a parte questo, ecco, c'è un dato di fatto, dicevano prima i suoi ospiti che c'è un problema grosso anche per quanto riguarda la riscossione degli importi alle pubbliche amministrazioni. Sa perfettamente che ci sono delle norme che imporrebbero a questi soggetti di pagare in termini più stretti, ma questo non avviene, e allora ci sarebbe un motivo semplicissimo di equità fiscale. Poniamo per esempio come proposta normativa di imporre agli enti pubblici dei corsi al massimo 90-120 giorni di commutare i loro debiti in crediti fiscali, ossia le imprese non devono fare rivolte fiscali perché è un meccanismo pericoloso, però potremmo pretendere che, passato un termine ragionevole, il mio debito per IVA, per IRPEF, per IRES e tutto quello che volete deve essere automaticamente compensato, anche perché c'è un problema di fondo, e non approfitto ulteriormente del suo tempo, che se un contribuente per esempio supera 50.000 euro di IVA non versata in un anno scatta il penale. E questa è una barbarie giuridica, credo che non sia difendibile da parte dell'amministrazione finanziaria. Quindi un invito ad occuparsi più dei problemi concreti, e non, come diceva lei, l'omofobia è certamente un tema grave. Ma sì. Guardi Alessandro, me ne scrivono anche, quindi non ci vuole la legge sull'omofobia, ma sì, ci vuole, basta che non ci trasciniamo in una discussione infinita che diventa il centro della politica italiana, perfetto, perché non è quello il punto. Gianmaria da Milano, buongiorno. Buongiorno, eccomi. Io sono un po' più radicale del suo ascoltatore di adesso, perché vado anch'io tanto in giro e francamente sento... Che mestiere fa Gianmaria? Io gestisco un piccolo albergo a Milano, quindi sono io due dipendenti, una micro azienda minuscola. Come butta? Malissimo, quest'anno 40% in meno, con prezzi al 30% in meno, proprio veramente è stato un anno nero. Speriamo nell'Expo, sì, ma francamente mi sembra che anche lì sia tutto fermo. No, io volevo solo dire questo, cioè la gente non fa niente, anche in epoca napoleonica non faceva niente. Poi, come racconta un piccolo poemetto che ha scritto Tommaso Grossi, grande poeta milanese, a un certo punto i milanesi sono ribellati alle tasse, quando Napoleone ha messo un ministro delle finanze che si chiamava Prina. E Tommaso Grossi ha scritto un'operetta che si chiama La Prineide. Si sono ribellati, l'hanno preso, è una cosa satirica ma drammatica, e l'hanno ridotto in poltiglia, cioè non è rimasto niente del ministro delle finanze, cioè la gente è disperata. Ricordiamo. È disperata e quello che adesso, dice Casaleggio. Non per spingere al radicalismo, ma anche Gianmaria, dico adesso la fermo, però dico non per spingere al radicalismo, ma anche le cinque giornate di Milano sono iniziate con una rivolta fiscale sul tabacco. Questi stanno nel loro guscio, anche la regione è andato Maroni qua, là, su, lasciamo 75 in Lombardia, chi ne sente più parlare delle cose? No, la Lega è andata al governo, non pagate le tasse a Roma, di qua e di là, poi niente. Cioè è una situazione allucinante. Io sono veramente spaventato, molto preoccupato che la gente, come diceva il signore di prima, prenda i bastoni. Alessandro da Verona, buongiorno. Grazie. Alessandro da Verona è caduto, Luigi da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Sì, senta, io volevo fare... lei che fa di mestiere? Noi lavoriamo in edilizia con dei ponteggi, impalcature. Quindi anni mostruosi per voi? Ma diciamo che con la crisi c'è stato un po' di ripulizia, nel senso che le aziende che non riuscivano a tenere o che non erano regolari hanno chiuso. Fortunatamente i due soci fondatori della nostra impresa hanno avuto delle grandi occasioni, quindi bene o male stiamo lavorando e stanno assumendo. Gliela fate, insomma. La facciamo. L'unica cosa che chiaramente io vedo preoccupati, i due soci fondatori, e ne risentiamo anche noi che sono tutto lo staff, è i pagamenti, perché non è soltanto il pagamento della pubblica amministrazione, cioè del Ministero della Difesa per cui lavoriamo o per altri enti, ma anche i privati. Se tu Stato non mi garantisce, quando io faccio un'esecuzione di un'opera, non mi garantisce il pagamento e pretendi le regolarità contributive e tutti gli adempimenti fiscali, ma come pretendi che un'azienda va avanti? Come pretendi che un'azienda che partita da 20 si è arrivata a 50 unità e continua a dar lavoro, stringe le corde per andare avanti e tu non gli garantisci i pagamenti? Faccio il lavoro per un'impresa, questa impresa non paga, porta via i soldi, se li porta non so dove, e io faccio il lavoro non nessun modo per poterlo recuperare, e sono anche un creditore non privilegiato. Non è sostenibile. Se non aiuti le imprese agli incassi non può pagare. E come tu non dai lo stipendio a una famiglia, come pretendi che ti paga l'IMU, ti paga le tasse? Non ce la possono fare. Bisogna che lo Stato, anziché fare i suoi balzetti, si metta in testa di aiutare le imprese e a cascata aiuta i cittadini. Non lo vogliono capire, vivono dissociati dalla realtà, si devono svegliare. Grazie. Allora torniamo a Gianni Bottalico, perché io voglio qualche dettaglio in più sulla, e poi ritorneremo anche da Cornero, perché ha sentito anche tante voci di imprenditori, di artigiani, commercianti e così via. Però voglio tornare da Bottalico per un dettaglio, qualche dettaglio tecnico su questa proposta che fate voi di reddito di inclusione sociale. In sostanza, in cosa consiste? Perché è una cosa della quale abbiamo sentito parlare molto a livello politico, l'ha introdotto con energia il Movimento 5 Stelle, questo tema qua era nel loro programma fin dall'inizio, va detto. E però mi sembra di capire che la vostra proposta è diversa e di carattere diverso, meno universalistico se vogliamo. Assolutamente sì, anche se mi preme precisare che come ACLI l'abbiamo lanciato il tema del reddito ancora prima che il Movimento 5 Stelle arrivasse, va riconosciuto che comunque ha avuto il coraggio di riprendere un'iniziativa che i partiti, una nostra iniziativa che i partiti invece avevano dimenticato. Detto questo però è un'altra cosa, noi in questo momento siamo consapevoli che la situazione del paese e anche quelle cose che abbiamo ascoltato bisogna renderle coerenti con questo nostro patto. Noi stiamo pensando all'introduzione di un reddito di inclusione sociale che è il superamento della social card, non è un atteggiamento assistenzialistico e caritatevole. Noi vogliamo le nostre proposte che presenteremo domani riguardano proprio una serie di proposte per offrire opportunità, quindi dietro opportunità c'è sia una questione di risorse economiche, ma soprattutto anche delle politiche di servizi volte ad aiutare e a dare delle chance a chi oggi è in quella fascia per venirne fuori. Ecco, c'è anche un atteggiamento di grande rispetto, e noi partiamo sempre dal concetto di cittadinanza, restituire cittadinanza a chi oggi è in difficoltà. Questo è l'approccio. Quindi, quanto costa questa roba, Bottalico? Guardi, noi faremo domani le proposte in maniera più precisa, ma abbiamo presentato un piano triennale su questo che si evolve nel triennio e può partire anche da un investimento diciamo nel contesto piuttosto minimo. Domani lo presenteremo. Ci dia una dimensione di massima, però poi tanto domani dettaglierete tutto, insomma ci dia una dimensione di massima se può. Ma siamo sotto i milioni di euro in questo momento. Però stiamo parlando di una fascia di povertà molto, molto ampia, ecco, stiamo parlando di una fascia di popolazione molto, molto ampia, ma vorrei dirlo, mi consenta anche di fare questa, proprio coerentemente con la sua trasmissione quest'oggi, con gli argomenti. Noi consideriamo anche queste fasce elementi importanti per lo sviluppo e per il ritorno dei consumi anche nel nostro paese. Se noi restituiamo e ridistribuiamo un po' di ricchezza e diamo ricchezza anche ai cittadini, questi soldi ritornano in un circuito virtuoso e non vizioso come quello sì. di oggi. È anche una questione di tenuta sociale. Allora, Cornero, ha sentito un po' di telefonate degli ascoltatori, devo dire, no? Che... Sì, devo dire che sono tutte convergenti, sia le telefonate che anche i messaggi Facebook che lei ha ricevuto. Questo conferma i risultati del nostro sondaggio, se ce ne fosse bisogno, testimonia che c'è una tensione strisciante molto forte, anche perché stavo dicendo prima, di solito gli artigiani non... gente che lavora, sta tutto il giorno in bottega, non è abituata a proteste eclatanti. Se arrivate a questo punto vuol dire che la situazione sta diventando veramente intollerabile e abbiamo di fronte uno Stato che anziché essere amico è oppressore fiscale, oppressore burocratico e non dà, come dice lei giustamente, una linea, una visione. Non abbiamo un governo che indichi delle tappe, magari anche dolorose, magari anche pesanti, soprattutto per chi vive di rendita, occorre toccare i parassitismi che purtroppo affliggono la nostra società e che indichi una via d'uscita e un percorso, un cronoprogramma per uscire dalla crisi. Viviamo la giornata, discutiamo del caso Chieng, dell'omofobia, e come se vivessimo nel paradiso terrestre per quanto riguarda gli aspetti economici. Allora, una piccola precisazione storica, esclusivamente storica nella fattispecie, scrive un ascoltatore che ho detto che le cinque giornate di Milano iniziarono per una protesta fiscale, no, iniziarono con una protesta fiscale, insomma, si smise di fumare per non far incassare agli austriaci le tasse sul tabacco. 9 in punto. Pierluigi da Torino, buongiorno. Buongiorno, lei che fa di mestiere? Artigiano, tappezziere in stoffe. E come vanno le cose? Ma insomma, discretamente, qualcosa si è mosso, ma non è che poi alla fine risolviamo la situazione, ecco. Si sopravvive, dice lei. Diciamo. Dica. Se non avessi la moglie che ha un lavoro, quindi non saprei proprio, guardi, avrei già chiuso. Allora, ci dica, volevo fare il reclamo per quanto riguarda la tassa dei rifiuti che non ne avete mai parlato, almeno da come ho potuto ascoltare. Guardi, Pierluigi, le aggiungo che non sappiamo che fine farà, perché forse l'accorpano con l'IMU. Ecco, aggiungiamo a tutto questo, mi scusi, Pierluigi, perché qua così come dire, ci imbestialiamo per bene, aggiungiamo a tutto questo il grado di incertezza fiscale che stiamo vivendo, per cui non sappiamo se aumenta l'IVA, non sappiamo che fine fa l'IMU, non sappiamo che fine fa l'IMU sui capannoni, non sappiamo che fine fa l'IMU sulla prima casa e quella sulla seconda casa, non sappiamo che fine fa la TARES perché forse l'accorpano. Quindi ecco, questo è l'ottimo quadretto che abbiamo. Prego, Pierluigi, però. Niente, appunto volevo dire a reclamare un po' su questa tassa che io da solo su 120 metri quadri pago oltre 1000 euro di tassa dei rifiuti, che poi non so, in base anche al movimento di lavoro, cioè non capisco, ogni anno aumenta comunque, in ogni caso. Lei dice nonostante il lavoro diminuisca, dice la tassa sui rifiuti aumenta. Appunto, i rifiuti non ne fai, pago lo stesso. Angela da Milano, buongiorno. Buongiorno. Allora, io chiamavo solo per una precisazione. Lei che mestiere fa? Lei che mestiere fa? È in mobilità. Ha sofferto di questa situazione. Che lavoro faceva prima? Che lavoro faceva prima? Impiegata in una multinazionale americana. E quando è entrata in mobilità? 3 anni fa. Dovevo andare in pensione quest'anno, chiaramente con la Fornero è andato tutto a carte 48 per il momento, poi vedremo. Comunque, solitamente nelle aziende quando non ci sono soldi, quando si ha la canna del gas, si diminuisce il personale. Ma perché al governo questa cosa non se n'è mai parlato e non esiste? Lei dice il taglio ai dipendenti pubblici? Il taglio dei dipendenti pubblici e dei parlamentari. Perché dobbiamo continuare a pagare tutto quel po' di gente che c'è in Parlamento? Accorpare, come si fa nelle aziende quando vengono accorpate? Fare la stessa cosa. Tagliare dipendenti pubblici. Allora, c'è un elemento su questo. Ci sono due scuole di pensiero, io lo devo dire per onor del vero, che ci sono due scuole di pensiero su questo, nel senso c'è chi ritiene invece che tagliando dipendenti pubblici butti altra gente nella povertà, specie in un periodo di crisi. Però, diciamo, la discussione su questo è aperta. Giuseppe da Bari, buongiorno. Buongiorno. Lei che mestiere fa? Lei che lavoro fa? Io sono dipendente di una grande azienda. Come vanno le cose là dentro? Ma da noi diciamo che non vanno male. Ah, vabbè, ecco. Insomma. Preoccupato? Preoccupato? Prego? Preoccupato? Ma preoccupato più che altro per gli altri. Ah. Per me ormai ho 60. Però c'è caduta la linea. Franco da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi sente bene? Sì, che lavoro fa lei? Io ho una piccola azienda con 16 ragazzi, faccio elettronica. E come vanno le cose? Come l'Italia, in pratica con le banche che hanno ridotto gli affidamenti, con i fallimenti delle grosse aziende, con i fidi ridotti, io penso che parlare di sciopero fiscale va bene, però in queste condizioni... Se uno riesce ogni mese a pagare i dipendenti, i fornitori al massimo. Senti una cosa, ma è stato costretto a licenziare qualcuno in questi anni? No, io diciamo non ho fatto neanche cassa integrazione, perché ho dei ragazzi che in pratica pagano 600-700 euro di mutuo, qualcuno paga gli alimenti alle mogli separate, ne pagherò le conseguenze, ma non ho fatto cassa integrazione. È una scelta e ora? Umana. Ora... diciamo tutti i mesi, diciamo, se avanza qualche cosa uno paga le tasse. Quello è. Che voleva dire sullo sciopero fiscale? Ma lo sciopero fiscale, io penso che tanti amici, io faccio parte del movimento Imprese che Resistono, tanti amici Piemonte, Lombardia, Veneto, anche il centro Italia stanno a queste condizioni, non è che hanno bisogno di fare lo sciopero fiscale, già le tasse non si riesce a pagarle, ho capito? Sì, ho capito. Guardi, riguardo alle infrastrutture, no? In questo momento io sono sulla Roma Aquila, sulla tangenziale, sto facendo la fila. Sì. Ci sono tonnellate, stanno mettendo dei ponti di ferro, ma tonnellate di ferro. Sì. Ma tanta roba. Se lei legge che c'è scritto, sotto c'è scritto Made in Macedonia. Allora io dico questo, il macedone, il DURC, non glielo chiede nessuno, giusto, no? Ah, questo non lo so, di certo non il DURC probabilmente, insomma. Certo, non... no, allora questo qua, tutto questo lavoro... Probabilmente essere... gli chiedono altri adempimenti, però non il DURC, diciamo. Però diciamo, se questo appalto poteva essere anche gestito da un'azienda italiana... qualche lavoratore là, sì, forse ha ragione Franco, chissà se hanno trovato qualcuno che semplicemente ripeto, o gli faceva un prezzo più basso, magari offriva un tipo di qualità che magari in Italia da quel punto di vista non si trovava sulle cose. Bisogna andare a vedere le cose singole anche, Franco, per carità. Però sì, capisco il ragionamento e in gran parte lo condivido. Sandro da Ferrara, buongiorno. Sì, buongiorno, il nostro settore agroalimentare, 37 dipendenti, un'azienda che fattura intorno ai 3 milioni e 4, e quando è a fine anno... Che azienda è? Che azienda fa? Che fa la sua azienda? Noi produciamo dei prodotti agroalimentari nel settore e distribuiamo a tutto quello che riguarda dei formaggi, salumi, alla pasticceria, noi produciamo, facciamo, commercializziamo. Okay. E prende vari settori, è distribuito su 3 attività. Naturalmente la crisi si è fatta sentire anche per noi, un po' meno probabilmente che in altri settori, che nell'edilizia e nella grossa industria. Il problema è che ci accodiamo a tutti gli altri, chi ha dei crediti con il settore pubblico naturalmente non viene mai defiscalizzato, le solite cose che si dicono. Il problema principale di tutto è assolutamente il fatto che uno si rapporta con dei funzionari che assolutamente non hanno l'idea di quello che sta succedendo. Perché se loro avessero, cioè io non so neanche, perché poi quando si tolgono, diciamo, la divisa da funzionario, io credo che queste persone vivano nel mondo reale come vive lei, come vivo io, no? E non si rendono conto della situazione assolutamente paradossale che sta vivendo questo paese. Cioè non è la qualità, cioè non è neanche il settore della crisi, la qualità delle imprese che è calato drasticamente. Cioè fare impresa in un certo tipo e farlo in un altro, è vero, hai il numero di imprese di partita IVA, ma la qualità delle imprese, la qualità della produzione, secondo me è importantissima, è stata la salvezza di questo paese. Certo. Il problema è questo, secondo me questi funzionari, questi burocrati che alla mattina si svegliano e ci mettono il bastone fra le ruote invece di aiutare, io non chiedo aiuti né economi, niente, lasciateci lavorare in tranquillità. Lei dice giustamente si abbassa la qualità di quello che facciamo e quindi si perde quelle che sono le caratteristiche italiane. Allora, io ho una domanda per Gianni Bottalico, perché allora, ci scrive Federico Fuga, appena pagata, ci scriveva prima a proposito della sua dichiarazione, diceva, ma insomma, non sa dirci reddito e inclusione, ma non sanno quanto costa quando si dice un piano concreto. Io credo più che altro che lo vogliate presentare domani e quindi non volete anticipare, ma nemmeno una cifra ci dà Bottalico. Guardi, le dico la cifra, complice, è molto modulare, l'investimento parte da 800 milioni, circa quindi un miliardo, e a scalare a 6-8 miliardi, quindi è una proposta che domani dettaglieremo quindi stiamo parlando di queste cifre, okay. Stiamo parlando di circa 800, un miliardo di euro a scalare fino a 6-7 nel triennio, sulla base anche di quanto e di quali servizi vogliamo mettere in campo, sempre con quella logica di compatibilità, perché vede, domani noi non solo presenteremo quanto costa secondo noi il reddito di inclusione sociale, ma presenteremo anche come recuperare queste risorse e dove andare a recuperare queste risorse. Sicuramente non da quelle persone, da coloro che abbiamo sentito sta facendo fatica anche imprenditori. Ci mancherebbe altro, facciamo il reddito di inclusione sociale e poi escludiamo socialmente altre persone facendogli pagare tutto. Stiamo parlando di un patto aperto dove ci sono anche gli imprenditori e gli artigiani, non stiamo parlando di una guerra aperta, quindi siccome in questo paese abbiamo bisogno di lanciare anche segnali di coesione e di pacificazione, però per noi insieme agli obiettivi credo che domani la nostra proposta. Ok, Bottalico, a Cornero ho bisogno di una risposta in 10 secondi, me lo dica, se non abbiamo risposte sarà sciopero fiscale. È una delle opzioni che ci sono sul campo, anche perché come associazione di rappresentanza dobbiamo anche, oltre che guidare, ma anche ascoltare la base. La base ci chiede di dare segnali forti e concreti e quindi potremmo prendere anche decisioni clamorose. Grazie Marco Accornero, grazie Gianni Bottalico, grazie a tutti gli ascoltatori, quelli ancora in linea che non sono riuscito a far intervenire, Giuseppe Dabari che poi abbiamo recuperato, ma insomma la linea non era un granché, Roberto Scaltriti in regia, il grande Alessandro Marco Tulli in redazione, tutti voi per l'ascolto, buona giornata. Ricordati! Mancano 69 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.